Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e benvenute alla nostra 289esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. In radio questa sera siamo Caterina, che sarà una delle voci e la poco anche esperta tecnica, insieme a Stefania. Ciao. Stasera vi proponiamo una polemica che ha girato sui media e sul web, coinvolgendo anche alcune scrittrici e giornaliste come la Zanardo e la Stancanelli. Più che per passione, ve la riproponiamo per ovvietà. L'ovvio del così va il mondo, o se preferite le vicende delle donne sono segnate e per di più di poca importanza. La violenza dei rapporti con i maschi e con il potere va sempre nella stessa direzione, sopraffazione e libero accesso. Noi crediamo che la memoria degli accadimenti, anche se datati, sia fondamentale per costruire percorsi di autonomia e autodeterminazione. Su questi convincimenti la trasmissione di oggi. Vi ricordiamo che potete intervenire a questa trasmissione scrivendo un sms al nostro numero di cellulare 339-853-6270, che resterà acceso fino alla fine di questa puntata. A questo punto non ci resta che augurarvi buon ascolto ed iniziamo ascoltando subito un brano musicale. Si tratta di Summertime dalla voce di René Olmsted. Un attimo che parte. Non si sente la canzone, mi vai un attimo a chiamare perché non parte. È una bellissima canzone, l'avevo scelta ma era proprio bella, ma non si sente. Silvia, aiutaci, non riusciamo a sentire la canzone, questo l'ho messo ma non parte. La devi alzare. Ah, ecco, io ho detto che ero poco esperta, la rimetto perché era molto carina, quindi la rimetto. Ce l'abbiamo fatta. And the living is easy. Fish are jumping. And the curtain is high. Your dad is red. And your mind is good looking. So little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Your little wings and take to the sky, take to the sky. But until that moment, there's nothing that can harm you. With Daddy and Mommy standing by. Summertime, yes, the time I'm talking about. Summertime and the living, summer living, and the living is so fine. The fish are jumping and the curtain is high. You're down. rich, your daddy's filthy rich, and your mama, hot mama, your mama's so good looking. So hush, little baby, don't you cry. Vecchi ricordi di Ultimo Tango a Parigi, di cui uno molto caro riguarda mia nonna. Femminista antelitteram, nata negli anni 20, portava i pantaloni, fumava e andava in Vespa con la sua migliore amica. E sempre con questa amica andò al cinema a vedere Ultimo Tango. A metà film si alzarono in piedi gridando «È uno schifo!», uscendo dalla sala cinematografica accompagnate dai fischi degli altri spettatori. Il secondo riguarda i miei anni da adolescente. Ricordo che riuscì a reperire il film Scandalo della generazione precedente in videocassetta, come credo molte e molti adolescenti di allora abbiano fatto. Ricordo la noia e la delusione per aver tanto aspettato e immaginato quel film che si rivelava cupo, tristissimo. La storia di un uomo finito, allo sbando, interpretato dall'osannato Marlon Brando. Chissà perché tanto osannato, mi chiesi all'epoca. E Maria Schneider? Non la ricordo, mi chiedo perché. Probabilmente perché quel film, come la stragrande maggioranza dei film anche oggi, venne girato con un'ottica maschile e dunque si guarda l'azione attraverso gli occhi di Brando, empatizzando con lui, mentre la coprotagonista subisce una reificazione, cioè diventa un oggetto. Come avrete capito, oggi vi parliamo della polemica sorta dopo le affermazioni di Bernardo Bertolucci su Ultimo Tango a Parigi, film del 1972, forse la sua pellicola più famosa, che all'uscita fece scandalo per le esplicite scene di sesso. Proprio una di queste, la nota scena in cui Marlon Brando sodomizza Maria Schneider usando del burro, è stata oggetto delle dichiarazioni del regista, ospite alla Cinémathèque Française di Parigi, per una lezione sul cinema. Leggiamo il reportage fatto da Marina Terragni sull'articolo su Io Donna del Corriere. L'idea di come girare questa scena è venuta a me e a Marlon. Stavamo facendo colazione seduti sulla moquette dell'appartamento parigino e ad un certo punto lui ha cominciato a spalmare del burro su una baguette. Subito ci siamo dati un'occhiata complice. Abbiamo deciso di non dire niente a Maria per avere una reazione più realistica. Una violenza, dunque, che se non è proprio uno stupro poco ci manca, scrive la Terragni. Qualcuno tra gli studenti, a fronte delle confessioni del regista, ha voluto fare una domanda, ha voluto domandare se non ritenesse immorale al giorno d'oggi comportarsi in tal maniera con i propri attori, e Bertolucci risponde: «Non sono un uomo di oggi. Maria voleva fare cinema a tutti i costi», ha proseguito. «Era molto giovane, aveva appena 20 anni all'epoca del film. Per tutta la sua vita, poi, è stata molto rancorosa sia nei miei confronti che nei confronti di questo film». Beh, uno stato d'animo comprensibile, scrive ancora la Terragni. S'era sentita sfruttata. Ma Bertolucci continua. E purtroppo quello che spesso succede quanto si è dentro un'avventura che non si comprende. Lei aveva un'intelligenza intuitiva, ha concluso il regista. Non aveva i mezzi per filtrare quello che le è successo. Sentiamo adesso cosa la stessa Maria Schneider aveva dichiarato nel 2007 alla Repubblica. Mi hanno ingannata, mi hanno quasi violentata. Quella scena non era prevista nella sceneggiatura. Io mi sono rifiutata, mi sono arrabbiata. Ma poi non ho potuto dire di no. Avrei dovuto chiamare il mio agente o il mio avvocato perché non si può obbligare un attore a fare qualcosa che non è nella sceneggiatura. Ma all'epoca ero troppo giovane, non lo sapevo. Così fui costretta a sottopormi a quella che ritengo essere stata una vera violenza. Le lacrime che si vedono nel film sono vere, sono lacrime di umiliazione. Non ho ancora perdonato Bertolucci per il modo in cui mi ha trattata e anche quando l'ho incontrato a Tokyo anni fa l'ho ignorato. Lo ricordo ancora bene sul set. Era grasso, sudato e ci ha manipolati sia Marlon che me. Alcune mattine sul set era molto gentile e salutava, altri giorni non diceva niente, solo per vedere le nostre reazioni. Io ero troppo giovane e ingenua e sfruttata. Per il film mi diedero soltanto $5,000. Ultimo Tango a Parigi, invece, incassò milioni. Maria fa il suo esordio a teatro non ancora quattordicenne, senza aver mai ricevuto lezioni di recitazione. Ultimo Tango è il suo terzo film che, all'età di 20 anni, le regala la fama mondiale, facendola entrare nella storia del cinema, relegandola però in ruoli predefiniti e forzatamente trasgressivi. Questa situazione la distruggerà psicologicamente, precipitandola nel consumo di eroina. Nonostante questa drammatica vicenda, la Schneider troverà il coraggio di dichiarare ai media la sua bisessualità. Ora, prima di leggere qualcosa della carriera di questa attrice, ascoltiamo il brano musicale Miss Brown to You, dalla voce di Didi Bridgewater. Never guess who? A lovable hug about Emily Brown. Allora, la Schneider nel 1975 interpreta la misteriosa amante di Jack Nicholson in Professione Reporter, un film di Michelangelo Antonioni. Nei primi mesi del 76, durante le riprese di Caligola, viene licenziata dalla produzione per il suo rifiuto a girare delle scene di nudo, e il licenziamento le provoca una crisi nervosa tale da dover essere ricoverata in un ospedale psichiatrico di Roma. Nel 1977 recita nel film Io sono mia, diretto dalla Scandurra, tratto dal libro di Dacia Maraini Donne in guerra del 1975. Il film è una sorta di manifesto femminista e vi lavorano solo donne, eccezion fatta per alcuni attori e alcuni tecnici. La storia racconta di una maestra in vacanza su di un'isola che incontra una serie di donne, tra cui la Schneider, e mette in discussione il rapporto di dipendenza dal marito padrone. La maestra era Stefania Sandrelli e le musiche sono state composte interamente da Giovanna Marini. Nel 1979 è per la Schneider un anno turbolento, segnato dalla tossicodipendenza, da un'overdose e da un conseguente tentativo di suicidio. Nel 1980, dopo un lungo periodo di riabilitazione, torna alle scene cinematografiche e teatrali. Muore il 3 febbraio 2011 a 58 anni a causa di un cancro ai polmoni. Le dichiarazioni di Bernardo Bertolucci hanno gettato nuova luce sulla vita difficile di Maria Schneider. I suoi abusi e problemi sono stati fatti risalire all'umiliazione e alla manipolazione subiti sul set di Ultimo Tango a Parigi. Si sono scatenate sul web e sui mass media commenti, articoli di quotidiani e post di semplici lettori. Quello che più ci ha colpite è il bell'articolo di Lorella Zanardo, apparso su Il Fatto del 20 settembre 2013. Già il titolo ci fa capire il senso che la giornalista vuole dare al suo scritto. Ultimo tango a Parigi, Bertolucci, Brando e l'uso improprio di Maria Schneider. E già, perché proprio di uso si tratta. Come molti hanno scritto, un regista usa sempre i propri attori, ma qui, come dice la Zanardo, di uso improprio si parla, perché la Schneider non era consapevole di quello che stava succedendo e in più, come lei stessa afferma, non ha avuto la forza psicologica e la consapevolezza necessaria per contrastare l'abuso e impedire quindi che la scena venisse inserita nel film. Grave anche che Bertolucci, che non sembra pentito di ciò che ha fatto, ne parli liberamente a degli studenti di cinema, come a dire, il cinema si fa così. Ma tornando alla contestazione dello studente, siamo davvero sicure che oggi non accadrebbe la stessa cosa? Siamo sicure che non ci siano attrici, modelle manipolate dal potere maschile agito da registi e o stilisti, costrette a girare o a fare qualcosa che non vorrebbero? E i famosi provini di Tinto Brass, allora? Quanto potere politico ha un regista, in quanto maschio e in quanto regista, su una giovane alle prime armi? Sempre il solito discorso femminista, diranno alcuni e purtroppo alcune. E se è una donna a dirigere? Capita a volte che se la regista è una donna abbia comunque meno potere di un uomo, come l'esperta Brenda Chapman, regista di Ribelle e The Brave, che fu allontanata dal set, come già vi abbiamo raccontato in una trasmissione dello scorso anno. Ora vi raccontiamo un altro aneddoto cinematografico. Nel 1948 esce il magnifico film Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. Il regista si trovò in una certa impasse nel momento di girare la famosa scena in cui il protagonista Antonio cerca maldestramente di rubare una bicicletta davanti a suo figlio Bruno. Il bambino, interpretato da Enzo Staiola, doveva, nel momento in cui il padre veniva aggredito dalla folla, scoppiare a piangere. Ma Enzo non piangeva. Alla fine, Vittorio De Sica, dopo aver nascosto nella giacca del bambino dei mozziconi di sigaretta, lo accusò davanti a tutta la troupe di essere un ciccarolo. Venivano chiamati ciccaroli quei miseri personaggi che nel dopoguerra raccoglievano le cicche per terra per ricavarne del tabacco. E il bambino scoppiò in lacrime, lacrime vere anche in questo caso. Oggi sarebbe ancora possibile tutto ciò? Vogliamo sperare di no e che la cosa risulti inimmaginabile. Eppure, alle donne succede ancora. Dicevamo del bell'articolo di Lorella Zanardo, che sottolinea come Bertolucci non contempli il fatto che le attrici recitano e che il compito di un regista è dirigerle. Bertolucci, con molta probabilità, aveva scelto la Schneider in base al suo aspetto fisico e non alle sue doti artistiche. Dunque non riteneva che la giovane donna potesse interpretare con verità ciò che invece lui riteneva indispensabile. Che fare, dice sempre la Zanardo? La soluzione deve essere parsa facile, sia a regista che a Brando: sorprendere Maria, non avvisandole delle loro intenzioni, ottenendo così ciò che entrambi volevano. È dunque evidente come la Schneider sia stata usata con violenza e senza rispetto. Però è bene specificare, non in nome dell'arte, per pigrizia forse, per non dover impiegare tempo a spiegare ciò che si voleva ottenere, per noncuranza, perché le donne sono oggetti, tutte motivazioni inaccettabili. Questo è il pensiero della Zanardo, che condividiamo pienamente. Ci stupisce invece l'articolo apparso su Repubblica del 23 settembre 2013, a firma Elena Stancanelli, nel quale l'autrice definisce il tantam delle dichiarazioni di Bertolucci la solita gazzarra isterica dei commenti e prosegue. Mie care anime belle, era un film, vi è chiaro questo? Un bellissimo film di un grandissimo regista, dove un attore bravissimo finge di sodomizzare un'attrice. Siamo nel mondo della finzione, ci sono telecamere, luci, tecniche, c'è un'azione e c'è uno stop. E dopo lo stop si gira un'altra scena, non è la vita, non è uno stupro. Attente con le parole. Siamo ben consapevoli che non si tratta di uno stupro reale, anche se sono le parole che gli stessi protagonisti, Bernardo Bertolucci e Maria Schneider, usano. Il problema qui è un altro: è il rispetto di una persona che sta facendo il suo lavoro, è la condanna netta di ogni tipo di violenza, fisica, come capita spesso tra le mura domestiche, ma anche psicologica, come purtroppo capita sovente anche negli ambienti di lavoro. Bene, ora ascoltiamo Because of You del gruppo Sapphire. Sapphire. Because of you, you I smoke all day. Because of you, I drink my blues away. Because of you, I can't sleep at night. Because of you, I lost my appetite. What should I do about you? Because of you, I still stutter my words. Because of you, oh, my tummy hurts. Because of you, my eyes are red. Because of you, I just stay in bed. What